tristezza ti leggo sul volto, per cose da nulla o senza perché. Tristezza diventa bellezza in fondo ai tuoi occhi che guardano me. Bellezza e tristezza dei fiori che il loro profumo non ebbero mai. Bellezza e tristezza di pioggia che pianto improvviso in un giorno di sole. Sei triste ma è bello, lo sai, ritrovare la felicità. Sai, perso il sorriso, tu puoi ritrovarlo con me, sì, con me. Tristezza dei fiori che il loro profumo non ebbero mai. Bellezza e tristezza di pioggia che pianto improvviso in un giorno di sole. Sei triste ma è bello, lo sai, ritrovare la felicità. Sai, perso il sorriso, tu puoi ritrovarlo con me, sì, con me.